Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo nel 2019 ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Eddie Bertozzi di Academy 2 che lo distribuisce per presentare il film Peterloo di Mike Lee al cinema da giovedì 21 marzo 2019. Eddie, ben trovato. Ciao a tutti, grazie mille. Lo raccontiamo brevemente? Sì, Peterloo è il nuovo film di un maestro del cinema mondiale, Mike Lee, un signore che ha già vinto una Palma d'Oro, un Leone d'Oro e è stato nominato 7 volte all'Oscar, quindi capiamo che tipo di grande film possiamo aspettarci. È un grande affresco storico ambientato nel 1819 e ripercorre un evento reale, ovvero una marcia pacifica che è stata organizzata a Manchester da oltre 60.000 cittadini che reclamavano diritti e riforme politiche, ma l'esercito britannico in quell'occasione attaccò i manifestanti spargendo sangue sulla folla, disegnando una delle pagine più cupe della storia britannica, che diventa però un momento fondante della nuova democrazia, non solo inglese ma europea in generale. A fronte di questo atto c'è stata addirittura la fondazione di un quotidiano storico come il The Guardian. Quali sono gli elementi che ti hanno convinto di questo film? È un film grandioso sotto tanti punti di vista, sia contenutistici che stilistici. Intanto, come Mike Lee ha sempre abituato, è uno spettacolo per gli occhi, è un film praticamente composto da quadri. Lui, come sempre, ha questa forte vena pittorica, si ispira a tutta una serie di grandi autori della pittura europea ed è veramente come camminare all'interno di un museo con dei quadri che prendono vita. Mentre da un punto di vista dei contenuti è incredibile la forza politica, sociale e umana del racconto che fa Mike Lee. Non è semplicemente la cronaca di una manifestazione, ma è proprio un viaggio all'interno dello spirito, della rabbia di un popolo che chiede dei cambiamenti e del potere che in qualche modo ci si ribella contro. Interessante l'immagine che dà dei governanti, memori della lezione della rivoluzione francese, e totalmente avulsi dalla società, un corpo estraneo a sé stante che poi attraverso la giustizia colpiscono con pene spropositate. Qualsiasi cittadino commetta un reato e questa è tra le cause poi che porterà le mobilitazioni. Certo, e un altro aspetto molto interessante del film è proprio il dato storico. Mike Lee ha lavorato con degli storici sul set e ogni dettaglio, non solo figurativo, ma anche, appunto tu ora menzionavi tutta una serie di aspetti di punizioni legali legati al potere esercitato dai politici e dalle forze militari dell'epoca, sono tutte cose reali che il regista ha studiato nei minimi dettagli e che ci ripropone sullo schermo esattamente come erano. Dove lo avete incontrato il film? Ma in realtà è stato uno di quei casi in cui la fiducia che si ripone in un grande autore vale più di ogni altra cosa. È un film di cui abbiamo acquistato i diritti ancora prima di averlo visto, mentre il film era ancora in preparazione. L'abbiamo poi scoperto assieme al pubblico alla Mostra del Cinema di Venezia dell'anno scorso, dove il film è stato presentato con grande successo in concorso. All'estero com'è andato? All'estero al momento è uscito solamente a casa sua nel Regno Unito, dove è stato accolto molto bene sia dalla stampa che dal pubblico. Uscirà prossimamente, anzi poche settimane dopo di noi, dopo l'Italia, negli Stati Uniti, dove Mike Lee, dopo un tour che sta facendo in questi giorni in Italia, si recherà per appunto promuovere il film anche dall'altra parte dell'oceano. Un altro aspetto interessante è l'arte oratoria in pubblico dei vari personaggi politici dal basso e non solo, mossi tutti da comunque una grande passione civile. Certo, ma questa dell'arte oratoria è un aspetto molto interessante del film. Il film in qualche modo sembra volerci mostrare tramite le immagini come attraverso le parole, i discorsi, i concetti che vengono espressi in un modo piuttosto che in un altro, è possibile creare un pensiero non solo politico, ma proprio un pensiero, un'idea sul mondo, e lo vediamo fatto a diversi livelli, dalle taverne dei bar ai grandi comizi di piazza, alle discussioni fatte in famiglia attorno a un tavolo. Mike Lee crede fortemente nel potere della parola, e questo è anche un monito, secondo me, molto moderno, molto contemporaneo. Peter sembra essere solo incidentalmente un film ambientato nell'Ottocento, in realtà è un film che parla all'oggi e lo fa attraverso, rivalutando e mettendo al centro dell'attenzione il potere e l'importanza della parola. Due sono le grosse spinte al cambiamento: una il peso politico che vuole avere il singolo cittadino, dall'altra le condizioni di estrema miseria, la fame veramente. Certo, come dicevamo prima, il film parte innanzitutto da una documentazione storica molto precisa, e quindi quello che vediamo è la situazione, in questo caso della Gran Bretagna, in particolare all'inizio dell'Ottocento, in una società letteralmente spaccata in due: da una parte i pochi, ricchi, potenti, dall'altra parte la moltitudine delle masse che lavora in fabbrica e che non può permettersi neanche di comprare le patate o le uova al mercato. Ci sono delle scene molto precise che ci raccontano questi dettagli. Che tipo di distribuzione sarà? In quante sale? Allora, per questa prima settimana saremo in circa 40 sale in tutta Italia, partendo dalle città principali, e poi contiamo di allargarci, di spostarci in modo tale da poter raggiungere veramente tutto il paese. Pensiamo sia veramente un film non solo importante, ma soprattutto un film bello, uno di quei film per il quale vale la pena sedersi in una sala cinematografica e regalarsi il piacere del grande cinema, quindi contiamo di portarlo in più città possibili. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film Peterloo di Mike Lee al cinema da giovedì 21 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Eddie Bertozzi di Academy 2 che lo distribuisce. Eddie, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi il lupo, grazie mille a voi. Con Enzo Dalò, regista del film La gabbianella e il gatto, il cartone italiano più visto di sempre, che torna in sala a 20 anni dall'uscita, dal 21 al 24 marzo 2019. Enzo, ben trovato. Ciao a tutti, buongiorno. Come lo racconteresti in breve a chi non lo conoscesse? È una storia che parla di una gabbiana che sta tornando dalle sue migrazioni con un uovo nella pancia e che finisce in un mare di petrolio, e quindi, come è successo spesso e purtroppo succede ancora oggi, le sue penne si impregnano di petrolio, non può più volare, è destinata a morire, con le ultime forze vola finché arriva in un giardino, in una città del nord, dove abita il gatto Zorba. Atterra in questo giardino proprio sul muso del gatto e prima di chiedere al gatto di esaudire il suo desiderio più grande, cioè quello di che il suo figlio possa vivere, non sia mangiato dal gatto non appena esce dall'uovo, e soprattutto che il gatto possa insegnare al suo figlio a volare. E questo è l'inizio della storia, che racchiude in sé due elementi importantissimi, che sono la lotta all'inquinamento e dopo 20 anni non è cambiato molto, purtroppo, e l'altro è l'accoglienza del diverso. E anche qui oggi è una giornata pure particolare, perché abbiamo una nave in mezzo al mare. Sì. E quindi anche in questo caso, non è cambiato molto, anzi, forse la situazione è anche un poco peggiorata. Mm-hmm. Quindi sì. a maggior ragione dico, invito tutti quanti ad andarlo a vedere questo film, perché è importante che i bambini di oggi, anche i bambini di ieri, si rivedano con lo sviluppo di questa storia, e il gatto Zorba ha molto da insegnarci. Enzo, com'era nato tutto? Era nato con un libro, con un bellissimo libro di Luis Sepúlveda, che abbiamo portato a Cecchi Gori, al produttore. Il produttore ha amato la storia, ed è stato disponibile a finanziare la produzione del film, e quindi siamo partiti in molto, molto spensieratamente. È stato un film che è stato realizzato anche in meno di 2 anni, quindi in maniera molto veloce, molto semplice, nonostante sperimentassimo le nuove tecnologie, perché questo film fu fatto tutto in digitale, con sistemi che adesso sarebbero arcaici, perché in 20 anni è cambiato veramente tutto nell'era informatica, ma insomma ci divertimmo molto. Poi le musiche di David Rozzi, i disegni di Cavazzuti e Fuselier, insomma avevamo un grande staff che lavorava, e sono ancora oggi molto contento del risultato. Cosa avevi amato del libro? Del libro ho amato soprattutto questo incipit che vi ho detto, questo entrare, questo narrare con leggerezza, con poesia, dei temi che sono temi socialmente importanti, sono temi culturalmente e socialmente importanti. Questo è bello, ma questa è una caratteristica di tutti i grandi scrittori, sono scrittori i cui libri diventano eterni per i messaggi che trasmettono. Sepúlveda è uno di questi, ma non sono purtroppo tanti, si contano sulla punta delle dita delle mani probabilmente i libri per ragazzi di spessore. Rispetto al libro, su cosa avete voluto puntare l'attenzione? Rispetto al libro, noi abbiamo rispettato molto il messaggio, il concetto del libro. Evidentemente, passando da un libro a un film, cambia tutto. Il libro è fatto a capitoli, è diviso in capitoli, il libro prevede una persona che lega magari un bambino alla storia. Il libro di fatto c'è un rapporto molto personale in un libro tra il lettore e lo scrittore, perché il lettore immagina tutto quello che lo scrittore affida alla penna, quindi la voce dei personaggi, i colori, sono tutti legati all'immaginazione del lettore. Nel film il regista, in questo caso io, deve farsi carico, deve prendersi la responsabilità di interpretare il libro e di trasmetterlo allo spettatore confezionato, quindi sono io che scelgo per lo spettatore l'arredamento della storia, i colori, le musiche, e quindi è un passaggio importante. Poi c'è un passaggio drammaturgico altrettanto importante, la storia deve essere articolata in una maniera diversa, e per questo abbiamo aggiunto dei personaggi e ne abbiamo tolti altri. Dal punto di vista visivo, avevi dei riferimenti estetici? Ci siamo un po' appoggiati alle descrizioni di Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda ambienta questa storia nel porto di Amburgo, e quindi abbiamo ricostruito in piccolo, ovviamente, questa città, l'abbiamo un po' metaforizzata, abbiamo trasferito le sue essenze, e evidentemente qui ci siamo inventati un sottocittà pieno di topi che cercano di uscire in superficie e che sono combattuti dai gatti, un gruppo di gatti del porto. Ci siamo ricostruiti tutta una vera piccola città disegnata in modo da poter poi ambientare gli spostamenti e i movimenti dei personaggi. Diciamo che si sente molto l'atmosfera, i cieli del mare del nord, no? come colori, come sensazioni. Dopodiché il colore abbiamo cercato di utilizzarlo sempre in maniera emotiva. Il colore descrive anche le situazioni emotive che passano i personaggi. Ce n'è un esempio molto ben visibile nella scena, appunto, in cui la gabbiana Kenka cade nel petrolio, perché fino a prima che arriva l'onda di petrolio i cieli sono azzurri e tersi, poi quando arriva il petrolio il cielo diventa di un colore rosso fuoco, quasi a simboleggiare il veleno che sta penetrando nel mare. Questa uscita di 4 giorni come viene fuori? Ma viene fuori dalla voglia di,

e o del titolo del nostro documentario, e nel raccontare questo sicuramente c'era un'Italia che usciva dalla guerra, che usciva da una civiltà contadina e si stava praticamente avvicinando a quello che poi sarebbe stato il cosiddetto boom economico. Le domande sembrano assurde, cioè nel senso che erano, posso dire, non so, c'è chi diceva se essendo incinta si poteva lavare i capelli, piuttosto che il dramma della verginità era un qualcosa di veramente molto importante, la perdere la verginità era un qualcosa di molto molto importante all'epoca. Le risposte forse sono ancora più incredibili e più avvicinanti, cioè c'era da parte di queste con variazioni in realtà, di queste contesse Clara, donna Letizia, un volere comunque acquietare qualsiasi voglia di emancipazione. Quindi le risposte erano sempre appunto attenzione alla famiglia, bisogna essere sempre molto uniti anche se voi soffrite, anche se gli uomini sono prepotenti, anche se sono egoisti, in realtà voi state zitti perché la famiglia è la cosa più importante, state zitti perché è la cosa più importante. E questo spaccato esce in maniera molto molto molto evidente. Noi abbiamo anche messo insieme a queste lettere, a queste risposte, abbiamo messo anche delle citazioni a proposito proprio di queste lettere da parte di Camilla Cederna, piuttosto che Natalia Aspesi, piuttosto che Paolo Pasolini, Cesare Giovattini, che in realtà raccontavano quel mondo che usciva fuori, che era molto molto legato per esempio ai fotoromanzi anche, per esempio. Che tipo di ricerca è stata? È molto ampia, immagino. Sì, esistono, in realtà esistono le autrici si sono mosse proprio andando a cercare le antologie di queste lettere, oppure documentandosi attraverso le riviste d'epoca fondamentalmente. C'è un libro molto importante di Gabriella Parca che raccontava questo mondo attraverso degli esempi, con la prefazione di Giovattini e l'introduzione di Pasolini. E quindi diciamo che la documentazione da un punto di vista, come posso dire, del testo è stato molto, molto approfondito. Io, come negli altri documentari che mi è capitato di fare con il repertorio dell'Istituto Luce, lavoro in realtà non per analogia, cioè cerco di ampliare attraverso il repertorio, che è vasto, che è molto bello, è enorme, cerco di ampliare il discorso, per esempio usando i materiali sui mestieri che le donne cominciavano a fare fine anni 50, quindi si parte da una lettera per arrivare a molte altre cose. Le risposte appunto delle titolari delle rubriche di cui parlavo prima, le ho fatte fare, ho fatto costruire a Cinecittà un ambiente, un salotto anni 50, e ho fatto agire all'interno a dare le risposte a un'attrice molto brava, che adesso è molto famosa fra virgolette, che si chiama Anna Fumidetta. E Anna si muove dentro questo ambiente, però io sono poi andato a farlo scoprire l'ambiente, quasi diventasse una specie di casa di bambola, perché in realtà tutte queste le risposte che mi hanno dato erano proprio quelle che uno poteva immaginare come proprio come fosse una casa di bambola, insomma. Che tipo di distribuzione hai pensato per questo lavoro? No, io non ho pensato alla distribuzione, intanto è uscito il video di adesso, però il mercoledì 20 siamo al Maxi alle 19 all'interno di un piccolo festival che organizza Mario Sesti, i documentari, e quella è una prima uscita nazionale, diciamo. Poi subito dopo andiamo a Bologna al Cinema Lumière, e poi credo, a questo punto non so bene perché poi adesso di questa cosa non è che me ne occupo, cioè poi usciranno fuori le cose, da aprile in poi andremo in giro un po' per l'Italia, insomma so già che andremo anche in Romagna, a Cesena, più in là, giugno, credo luglio, insomma ci sono tutta una serie di uscite che seguiranno, insomma il documentario dura 55 minuti. In questo senso ci lasci dei riferimenti web per saperne di più, se ci sono? Guarda, il trailer del documentario lo trovi sicuramente su YouTube, assolutamente. È un trailer molto divertente perché in realtà ho cercato di giocare proprio con la commedia, avendo anche l'intenzione di un'attrice come Anna Foglietta, che è molto brava sia nei ruoli drammatici, ma anche è diventata poi molto esperta soprattutto in commedia. E quindi ho cercato anche di lavorare con le luci. Il tipo di impostazione che ho fatto è proprio quella delle commedie americane degli anni 50-60, le commedie con Doris Day, con Rock Hudson, che raccontavano un'America, le cucine, i salotti, che in realtà non esisteva, era quella che era nell'immaginario degli americani, delle donne americane e degli uomini americani, che poi a ricalco è arrivata anche nell'immaginario italiano. Io ho usato molto repertorio che riguarda proprio il cambiamento nelle case degli italiani alla fine degli anni 50, l'arrivo degli elettrodomestici, per esempio, il fatto che gli uomini che le donne incominciassero a fare dei lavori abbastanza inconsueti, tipo la hostess, per esempio. Ho trovato la prima donna, la prima tassista a Milano, molto divertente, un documento del Luce in cui si racconta la prima donna italiana addirittura, che era a Milano, faceva tassista, così come le donne barbiere che facevano un barbiere in un paesino in Abruzzo. Insomma, c'è una vastità di materiali molto divertenti. Ho messo dentro Volare di Modugno a Sanremo, ma ho messo anche Alberto Rabagliati, che era un cantante famosissimo negli anni 40-50. Insomma, diciamo che ho giocato un po' sulla commedia per parlare però di cose serie. E allora ricordiamo il documentario Sogni, Sesso e Cuori Infranti, Piccola Posta Parla. Un saluto e un ringraziamento al regista Gianfranco Gianni. Ricordiamo, grazie. L'uscita in DVD a marzo 2019. È uscita in DVD il 20 marzo, cioè mercoledì prossimo, al Maxi, nella sala cinema Maxi, alle 19 ci sarà la proiezione qui. Un abbraccio e a presto. Grazie molto, ciao. Con Maurizio Di Rienzo, curatore della 13ª edizione della rassegna Italia Doc, a Roma, alla Casa del Cinema, dal 24 gennaio al 21 marzo 2019, per parlare degli ultimi appuntamenti. Maurizio, ben ritrovato. Ciao a tutti, grazie. Andiamo a questo gran finale. Va bene, volentieri. Ci sarà la chiusura giovedì 21 marzo, che sarà con il Teatro al Lavoro di Massimiliano Pacifico, che è stato alla giornata degli autori come evento speciale di Venezia. Sono 62 minuti sulla maieutica, potremmo dire, del teatro, con Tony Servillo, regista e attore, di Elvira, tratto da Louis Jouvet Quarante, una pièce famosissima del grande Louis Jouvet, attore di cinema e teatro, una specie di quercia della recitazione del secolo scorso, ed è uno spettacolo che sta girando l'Italia ormai da un anno. Ecco, in questo documentario che ci verrà giovedì il 21 con replica il 24 domenica, c'è la possibilità di vedere come uno spettacolo viene messo in piedi e tutte le correlazioni, i silenzi, le pause, gli scontri, le creatività vengono fuori. Quindi, come dice giustamente Servillo, non il lavoro del teatro, ma il teatro al lavoro, nel suo farsi e nel suo porsi i problemi per poi cercare di risolverli e far incontrare evidentemente le diverse entità che lo compongono. Quindi chiudiamo per il momento alla Casa del Cinema, che poi proietterà sempre altri documentari in maniera più estemporanea. Chiudiamo questo ciclo di Italia Doc. Ecco Maurizio, un bilancio degli appuntamenti precedenti, visto che abbiamo cominciato il 24 gennaio? Volentieri, grazie. Ma ho trovato il pubblico sempre interessato, con qualche dibattito anche coinvolgente, o addirittura come nel caso del Sole sulla Pelle, che riguardava un sopravvissuto alla strage di Via Reggio del treno che esplose 10 anni fa di Via Reggio, addirittura commossi. Credo che sia stato un viaggio sia nel passato, attraverso alcuni documentari che hanno rievocato cose accadute, appunto, sia nella nostra attualità, con un riguardo anche al mondo del cinema,